9 in punto, la versione di Oscar. Of everything that stands the end, no safety or surprise the end. Again. Buongiorno carissimi, buon martedì 24 di aprile, buona vigilia della festa della liberazione. La liberazione, vedremo di che cosa domani, qualche sorpresa, sarà una liberazione non solo nel ricordo dei martiri della libertà italiana, perché c'è sempre un tiranno da cui liberarsi, e domani vedremo qual è il mio che vi propongo insieme agli ospiti. Non c'è solo quello dell'autoritarismo fascista, lo Stato autoritario è con noi, è quello che ogni giorno ci scava la fossa in un peggioramento dell'economia italiana, in mercati mondiali che continuano a ballare. E tutti i giornali europei, se gli date un occhio stamattina, in effetti sono scioccati e preoccupati per le conseguenze del voto francese. Perché sono scioccati? Non c'è niente di cui stupirsi, era tutto ben chiaro, purtroppo. È da settimane che mi sentivate dire che c'era la crisi olandese che stava cuocendo, da settimane che vi ammonivo, io ultimissimo cretino, basta leggere i rapporti, i report dei mercati per capirlo. Quindi non ci si inventava nulla, non abbiamo nessuna pratica di magia ruspicina o di pratiche vaticinali, e semplicemente avviene quello che era logico che avvenisse di fronte alla vittoria di Hollande, che era larghissimamente anticipata nel primo turno e purtroppo anticipata anche nel secondo. Dico purtroppo parlando per i mercati, non per le opinioni politiche, perché bisogna sapere che questo ci riporta a 500 di spread ed è inutile non saperlo. Allora, dire in questo che avevamo fatto i compiti, dire in questo che non c'era alternativa all'impostazione tutto fisco dell'attuale governo, dire come ha fatto ieri il ministro Elsa Fornero, chapeau al suo coraggio di andare alla Leni a farsi fischiare, che non c'è alternativa alla sua riforma del lavoro, una riforma del lavoro di cui la cosa che resta di più è il giro di vite in ingresso, che abbatte ulteriormente la domanda del lavoro in impresa, cioè crea meno occupati. Ecco, dire questo e parlare il linguaggio di una sciocca superbia. Detto questo, vediamo che cosa ci riservano poi gli sviluppi della crisi europea. Io non sono di quelli singolari esponenti del pensiero moderato italiano che inneggiano improvvisamente a Hollande perché godono del fatto che arrivano gli schiaffi alla Merkel, questo centrodestra becero pezzente italiano che veramente perde ogni riferimento e diventa più spendi e spande di quello che è stato, tradendo i suoi impegni elettorali. Spiega perché è un paese in cui la politica non è seria, perché la destra e la sinistra, la sinistra non si sa, il centro per carità sta rinascendo come l'Araba Fenice e la Lega ruba come gli altri. Ecco, e questa è una cosa, e quando si vedono i moderati che fanno i socialisti e i socialisti che scimmiottano i mercatisti, è la politica italiana. Io continuo a non capirla, perché poi ecco perché poi chi vuole lavorare, fare impresa e guarda col ditino e dice: ma perché gli altri ce la fanno con meno spesa pubblica più efficiente della nostra? Ma perché gli altri non hanno un sistema fiscale? E dobbiamo sentire poi dal Presidente della Corte dei Conti, cioè da un burocrate di Stato, ieri dirci che ci sono troppe tasse e così via. Ecco, queste cose qua rimbalzano, perché voi capite che è una politica che balla come Cassius Clay sul ring, perché la sua grande qualità è non farsi mai trovare dove dovrebbe stare, tranne il fatto che le mani ve le mettono sempre nelle tasche dove non dovrebbero stare. Ecco, questa politica qua è l'esatta rappresentazione. Mi dispiace per l'autorevolezza con cui i Ferrara, i Cicchito, eccetera, si improvvisano neocantori della sinistra spendi e spandi che vuole assumere 100.000 persone in più nella pubblica amministrazione francese, ma invece sono di quelli che dicono che la campagna elettorale francese è stata surreale, perché hanno abolito il loro debito da 1.700 miliardi di euro facendo finta di essere un paese che non sta in un continente con un enorme problema di euro debito. Solidarietà anche al ministro delle finanze olandese, che è una persona serissima, uno dei più seri ministri delle finanze europee, lui si chiama Jans Kees de Jager ed è probabilmente il più di destra conservatore, meno spesa pubblica e meno fisco, insieme ad Anders Borg, che è quello svedese, che è il migliore di tutti a dire la verità, che importerei come un calciatore campione straniero per un paio d'anni, applicato all'Italia risolverebbe il problema, altro che quelli di oggi e altro che quelli di ieri. Naturalmente mi tocca dire anche, perché non vorrei passare per nostalgico, però Jans Kees de Jager ieri ha dovuto spiegare praticamente a tutta la stampa europea che il suo paese, che si avvia a elezioni anticipate, come avevamo detto, il 27 giugno, perché la destra sciovinista Il partito di De Vita ha rifiutato di votare i 18 miliardi di euro di tagli di deficit per stare nel fiscal compact, e il povero Jankes de Jager ha dovuto spiegare ieri: ma noi veramente non siamo come i cattivi dell'Europa del Sud, gli olandesi sono un paese rovirtuoso, eccetera eccetera. Ma questo per dire che l'euroscetticismo avanza e fa vincere le elezioni. Io vi ricordo che fino a questo momento ad andare giù sono stati i governi dei seguenti europaesi per via dell'eurocrisi: Irlanda, Portogallo, Grecia, Italia, Spagna, Slovacchia, Slovenia, Olanda. Come vedete, è molto dura stare in piedi quando non si dice un'elementare verità, che un euro a mercati separati dei beni e dei servizi non può stare. Chi vuole l'euro e una BCE come la Fed deve unire mercati dei beni e dei servizi, rinunciare alle tariffe, ai prezzi, alle autorità di regolamentazione nazionali. Questo nessun politico ve lo dice, perché vi assecondano nel vostro nazionalismo latente e vi dicono però che l'euro contemporaneamente bisogna farlo con più spesa pubblica, meno tasse. Dopodiché io mi chiamo Alice e andiamo tutti nel paese delle meraviglie. Fine delle ragioni purtroppo che mi inducono a essere ulteriormente pessimista per ciò che doveva essere chiaro a questo governo, per questo l'abbiamo sostenuto, e invece purtroppo poi si sta rivelando che anche questo governo ha atteggiamenti incomprensibili. Ecco perché abbiamo lanciato l'iniziativa di questi giorni, Disperati Mai Chiocciola, Radio24.it, ed ecco perché purtroppo io almeno personalmente, insieme a Sebastiano Barisoni, insieme a Tamburini, a Fabio Tamburini, il direttore, purtroppo non siamo stati stupiti nel vedere le centinaia, centinaia e centinaia di lettere che ogni giorno ci riversate, che testimoniano della difficoltà vera di un paese nel suo tessuto economico, che non è quella di metà del 2009, cioè nella prima fase della crisi. Questo è molto peggio. Io temo che siamo a un cambio di fase. Ne parlavo con Aldo Bonomi due giorni fa a telefono, e sono d'accordo con lui. Siamo in presenza di un cambio di fase di profondità e intensità tale da cambiare la storia dell'economia italiana con ogni probabilità. Quel capitalismo molecolare diffuso in milioni di microimprese, partite IVA, artigiani, commercianti, quello che molti considerano il ventre molle della produttività italiana e che è stata la caratteristica invece della maniera italiana di fare mercato, ecco, quella roba esce da questi 4 anni oramai di tensione crescente per via del problema del sistema bancario oggi torto sulla propria bassa redditività e che non ha margine per dare credito ulteriore, di fronte a uno Stato che è rapinatore, esoso e bandito e per di più ci fa la morale. Di fronte a questo e al permanere con noi con ogni probabilità dell'eurocrisi, questo capitalismo molecolare va a una moria ogni giorno di migliaia e migliaia di imprese. È così. Si può non vedere questo? No, il nostro scopo è quello di dar voce alle vostre lettere come oggi, di farvi parlare, quindi anche oggi ci saranno ospiti che ci hanno parlato, perché chi abbia orecchie intenda, spalanchi le orecchie, non faccia finta di dire che le loro ricette sono senza alternative, perché sono ricette sbagliate. La ricetta di politica economica seguita da questo governo, zero spending review, al massimo una spending review per evitarci l'aumento dell'IVA già deliberato a ottobre, che peraltro Vieri Ceriani ha già fieramente nella sua intervista a Repubblica, il vice ministro dell'economia ex Banca d'Italia, ha fieramente rivendicato dicendo: questa sì che è una copertura che piace all'Europa, non il taglio alle deduzioni e detrazioni, roba che mi sono grattato la testa dicendo: ma possibile mai che Vieri Ceriani si è imbizzarrito? Ecco, questa linea di politica economica è una linea completamente sbagliata. Se non ci aspettavamo dai professori il taglio di 5-6 punti di PIL in 3 anni di spesa corrente del nostro paese, non buttare la gente sul lastrico dei pubblici dipendenti, no, sul totale della spesa pubblica oltre 50 punti di PIL, meno della metà è una spesa nei servizi e nel welfare, meno della metà, tutto il resto, non ne parliamo oggi, ma sapete che mille volte ne abbiamo parlato, si può affrontare levando 5-6 punti di PIL senza enormi problemi, tranne la volontà di farlo ovviamente, il contrasto degli interessi che si toccano in 3 anni, è lì che c'è il margine a parità di bilancio e quindi salvaguardando i saldi per far diminuire la pressione fiscale, contestualmente, cioè subito, dando l'idea alla gente che si può fare e non si tornerà indietro, cioè convincendo gli attori economici che c'è un cambio di fiducia che può avvenire per questo, non questo vortice terrificante di nero, terrore e preoccupazione che si è diffuso sempre di più nell'economia italiana e ne pregiudica la fiducia, ne pregiudica le aspettative, ne pregiudica gli ordini, ne abbatte ogni possibilità di stare in piedi sul mercato domestico. Regge la parte alta, per fortuna, delle imprese italiane, che ha fatto valore aggiunto, che esporta, che ha valori nell'export che superano quelli del pre-crisi malgrado una produzione industriale di 22 punti più bassa, ma questo non può bastare perché centinaia di migliaia di imprese che muoiono di piccoli imprenditori che non ce la fanno più, cambiano nella profondità la possibilità di tenuta di un paese. Questa è la nostra sensazione, quella che ci restituiscono queste lettere e quelle che ci inducono a dire che continueremo, vi avviseremo giorno per giorno delle nostre nuove iniziative. Ecco, sono con noi intanto due imprenditori che ci hanno scritto per raccontarci la loro storia, e il primo è Dario Ferri. Io lo saluto, vi leggo intanto la sua lettera. Dario Ferri, piccolo artigiano imprenditore, nel 99 andai in mobilità perché l'azienda per la quale lavoravo entrò in crisi. Dopo 12 anni mi sento onorato di dare lavoro a più di 40 persone nel settore dei servizi. Per non incappare nelle ire dell'INPS sono stato obbligato a dividere l'aziendina in due realtà, altrimenti sarei diventato un grande industriale con notevoli costi che naturalmente avrei dovuto sopportare, ma che non posso sopportare. La cosa più interessante è il mio rapporto con le banche. Senza chiedere la luna, la banca con la quale lavoro di più, in un momento di crisi generale mi congeda un fondo di accantonamento volontario dicendomi che di questi tempi bisogna tutelarsi, e ci sarebbe da raccontare e come, per fino a scrivere un libro intero. Grazie e buongiorno a Dario Ferri. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Cosa vi posso dire? Grazie di esistere, perché date voce. No, no, ma non dica questo. Ci dica, per chi come lei è partito da piccolo artigiano, è cresciuto nell'impresa, eccetera, eccetera, il messaggio che vuole dare a tutti coloro che giorno dopo giorno, anche in questi giorni se ne sono aggiunti altri tre nelle ultime 100 ore, il messaggio da dare a loro qual è secondo lei? Io sostengo che, per esempio, se parliamo dell'articolo 18, non c'è nessun imprenditore che fa caso ormai all'articolo 18. Non, cioè, è la burocrazia che ci blocca, sono le banche che ci bloccano. Io sostengo sempre che noi siamo purtroppo governati da politici ormai mediocri, che una volta eletti hanno a loro volta bisogno di consulenti, perché non sanno cosa fare, non sanno legiferare, assolutamente, c'è troppa burocrazia. Se noi pensiamo che stanno nascendo nuovi partiti, che non sono più come una volta rappresentanze di ideologie, ma sono soltanto un'estensione trasversale delle personalità che compongono questi partiti già esistenti. E io le racconto un episodio. Per quanto riguarda la mia piccola azienda, io ho il privilegio di lavorare per alcune grandissime aziende. Nel 2009, fine 2009, ottenemmo un contratto per una manutenzione straordinaria, quasi 100.000 euro. E dovevamo approvvigionarci di materiali, eccetera. Allora presentai alla banca una piccola richiesta di un'estensione del fido per alcuni mesi. La banca mi chiamò a firmare tutto il contratto, il nuovo accordo. Il 24 dicembre alle ore 11:45 andammo io e mia moglie a firmare. Una volta firmati, mentre stavamo firmando, ci dissero: e voi avete un accantonamento volontario di quasi 90.000 euro, noi ve li dobbiamo congelare perché avete chiesto un allargamento del fido. La cosa mi rovinò il Natale, mi rovinò il Capodanno, mi ha rovinato un'esistenza. Per 30-40.000 euro di aumento di fido mi congelarono. Io per 23 anni ho fatto il dipendente, è quello che ho voluto per me. Non lo nego ai miei collaboratori, pertanto io accantono mensilmente, secondo le mie possibilità, un qualcosa che può servire anche ai miei dipendenti, certo, provvisoriamente, certo, per andare avanti, certo. Invece di andare dalle banche vengono in ufficio e chiedono un acconto, io, certo, do loro volentieri quello che posso. E questa testimonianza che poi nelle piccole imprese, quando si viene dal basso, non è l'articolo 18 la volontà di licenziare, ma al contrario, quando si è speso così tanto del proprio esiguo patrimonio e dei propri dipendenti, si pensa anche a questo. Guardi, la sua non è un'eccezione, lo sa perfettamente, solo che in questo paese sembra che invece fare impresa sia diventato agli occhi di molti il tentativo di trattare male, far star peggio la gente. Comunque la banca gli fa congelare anche l'accantonamento volontario. Sì, sì, sì, sì. Poi che succede? Durante l'anno 2010 noi abbiamo nel frattempo lavorato grazie ai nostri clienti, chiaramente si sono verificati purtroppo degli insoluti da parte dei nostri clienti. e questo ci ha fatto qualche volta scendere al di sotto del fido. Prontamente i clienti poi dopo 4, 5, 10 giorni hanno prontamente bonificato, ma purtroppo gli insoluti ci sono stati. Questo ha fatto sì che il nostro rating si abbassasse. A ottobre del 2010, quando dovevamo andare a pagare l'acconto tasse, io ho chiesto alle mie meravigliose creature che ho in ufficio di smobilizzare una parte di quell'accantonamento per andare a pagare l'acconto tasse. Certo. Dice no, non potete, perché anche quest'anno vi abbiamo congelato l'accantonamento. Dico, ma siamo impazziti? Dice, guardi, l'unica cosa che le possiamo fare è dare un prestito a 18 mesi. Praticamente la banca mi ha prestato i miei soldi. I suoi soldi, che li aveva congelato. Ma voi capite come dobbiamo vivere in un paese nel quale diminuisce la domanda e la gente non ti paga? Che chi accantona volontariamente, questa è la ragione per cui abbiamo chiesto a Dario di raccontarci la sua storia. Questo signore imprenditore, partito dal basso, accantona volontariamente per i suoi dipendenti e come margine per la sua impresa se le cose vanno male. La banca glielo congela, gli impedisce con questo di pagare le tasse e dice io ti presto i soldi. Questa è la fotografia di un sistema impazzito, di un sistema impazzito, perché questa è la certificazione che anche l'impresa saggia, che va bene, che ha messo fieno in cascina per fronteggiare il peggio, viene recisa nella sua vocazione che ha coerentemente seguito di essere capace di una sana e prudente gestione, e a farlo sono le sisteme fiscale da una parte e bancario dall'altro. Così un paese finisce in ginocchio. Questo è il motivo per il quale abbiamo chiesto a Dario di raccontarci questa storia, che è una storia, io lo ringrazio della sua testimonianza, che fotografa un pezzo d'Italia che è quella del ritardo di pagamenti, che è quella di sentire da Corrado Passera che stiamo finalmente pensando alla soluzione del problema dei crediti, dei debiti commerciali non pagati dallo Stato, e mi propone il meccanismo prosolvendo e non prosoluto, e bisogna anche leggere sui giornali che è una cosa di cui ringraziarlo. Ma dove ringraziarlo se io come impresa, la mia società, resto garante di quelli che non mi pagano da anni? Leggiamo adesso che ci sarebbe il tentativo finalmente di far andare in pagamento 5 miliardi di crediti IVA del 2010. I giornali descrivono questa cosa come se fosse, ma per carità, lo Stato è diventato buono, ma vedete come sono buoni questi al governo. Ma di cosa stiamo parlando? Ma se io avessi debiti nei confronti fiscali dello Stato da 2 anni avrei le procedure esecutive addosso, come ovvio, tutto pignorato. Per quale motivo bisogna accettare come una generosa dimostrazione di buon senso il fatto che chi ha il monopolio della forza lo usa solo a proprio vantaggio, mettendo in ginocchio l'economia? Allora, un'altra storia da questo punto di vista, un'altra testimonianza, è quella di Giuseppe Di Stefano. Giuseppe Di Stefano è un imprenditore giovane, 32 anni, ci ha scritto, che vive in provincia di Napoli, e lavora nella splendida regione Sardegna da diverse anni, fa parte, rappresenta un'associazione anti-racket e anti-usura che è in via di nascita sul territorio campano, e ha un problema perché lui, lavorando con il pubblico, ha appunto a che fare con le regole asimmetriche che lo Stato, ladro, bandito e per di più bandito moralista, a differenza di quelli che ti rapinano per strada e che non pretendono poi di spiegarti che l'immorale sei tu, ecco, mette in atto nei confronti delle imprese. Uso termini duri, sì, lo faccio apposta per provocare chi ci ascolta, per fare in modo che questo grido di dolore che da migliaia di imprese italiane si leva venga finalmente ascoltato, e con qualche attenzione in più di quella che poi il giorno che non aveva capito che c'era qualcosa che stava avvenendo disse gli daremo da mangiare brioche. Allora, grazie a Giuseppe De Stefano, ci racconti la sua di vicenda. Salve, buongiorno. La prima cosa la ringrazio per l'opportunità che mi sta dando stamattina. Lei diceva che sta utilizzando termini duri per far sì che qualcuno ci ascolta, ma io negli ultimi tempi ho visto che nonostante succedono grandi tragedie, imprenditori che si suicidano, il nostro Stato non fa niente. Ricordo qualche tempo fa, su una tragedia, su molte tragedie, lo Stato in qualche modo si muoveva. Vedo oggi che il nostro governo, nonostante tutto, non fa niente. Io mi ritrovo con il collega che ha parlato, per quanto riguarda le banche, con un'unica differenza. Lui i soldi deve essere pagati dai privati, io invece, per il 90% lavorando con il pubblico, devo avere i soldi dal pubblico. Ogni 16 del mese ci troviamo obbligati in qualche modo a pagare i contributi per quanto riguarda i dipendenti, a fine mese paghiamo i dipendenti puntualmente. Il problema sta diventando molto grave, molto serio. Perché? perché nonostante il nostro carissimo Monti dice abbiamo salvato l'Italia dal default, io vorrei capire per quale motivo oggi a me banche importanti non mi affidano, non mi danno affidamenti su commesse pubbliche, dicendo che non mi anticipano i contratti in quanto sono finanziamenti delle regioni e le regioni non sono più solvibili. Quindi vorrei pure capire da Monti, è vero che abbiamo salvato l'Italia dal default oppure no? Perché se le banche non si fidano dello Stato, vorrei capire in che modo l'abbiamo salvata. Inoltre un'altra cosa, cioè noi oggi abbiamo pagamenti degli enti, passano anni, cioè non parliamo più di mesi. Fino all'anno scorso, arrivati a settembre, che non pagavano per questi patti di stabilità, passava tutto l'anno, gennaio non ci pagavano, ma a febbraio ci davano pure gli arretrati. Oggi parliamo che stiamo ad aprile e non riusciamo a riscuotere crediti di maggio dell'anno scorso. Quindi stiamo parlando di anni, non sono più mesi. Ieri proprio ho parlato con un responsabile della regione Sardegna per un finanziamento che deve dare al comune, che poi a sua volta il comune mi pagherà. Non mi hanno saputo dire se pagheranno il comune tra un mese, tra due mesi o tra tre mesi. Quindi c'è pure l'incertezza del futuro. Noi fino ad oggi siamo regolati con questo famoso TURC, che sono i contributi che noi versiamo agli operai ogni 16 del mese. Sì. Ma fino a quando possiamo andare avanti? Loro pure dopo quando ci pagano, dopo un mese, dopo un anno che ci pagano, che ci dovevano dare 100.000 euro, ci pagano i loro 100.000 euro, quando noi abbiamo pagato interessi alle banche e tutto il resto a prezzo. Scusi se la fermo qua per dire che in un paese di questo tipo, primo, io capisco l'ANCE, l'Associazione dei Costruttori Italiani, quella guidata da Buzzetti, spesso nostro ospite, che ha deciso di lanciare per il 12 maggio prossimo una grande giornata in cui le imprese dell'associazione, a titolo di protesta, avviano azioni esecutive contro lo Stato che non paga. Bisogna trascinare alla sbarra in tribunale lo Stato, sapendo che la magistratura darà ragione allo Stato, perché il favor fisci è un principio entrato a far parte di una giurisprudenza che io non rispetto e critico liberamente, sia della Corte, della Suprema Corte di Cassazione, che della Corte di Costituzionale. È la giurisprudenza di uno Stato che ci ha reso servi, di un ladro. Lo Stato, la mia opinione è che in un paese civile un'amministrazione pubblica che non è in grado, come sentiamo dalle parole di Giuseppe e di Stefano, la cui impresa costruisce scuole nei comuni, non è in grado di pagarlo per anni, deve, sottolineo, 5 volte sospendere la pretesa del DURC pagato sui contributi ogni mese. Perché deve essere capace di fare una regolazione contabile in tempo reale tra il dare e l'avere. Chi pretende la simmetria a favore di uno Stato ladro, fallito e che ci trascina sempre più in basso per la cecità di chi lo guida, perché si potrebbe fare altrimenti, ha bisogno di protesta, di voci come quelle che proponiamo, ma poi ha bisogno di qualcuno che anche abbia il fegato di esporsi pubblicamente a dire che bisogna spezzarla questa catena. Quindi viva l'ANCE e un plauso a Buzzetti, che inviteremo qui per dire così noi non andiamo avanti, e sapendo che la magistratura ci darà torto, ma noi iniziamo le azioni legali nei confronti dello Stato. Eccoci tornati in studio, e prima di ridare la parola a Giuseppe De Stefano, fatemi leggere qualche riga che ha bisogno di una risposta, cuore in mano, e mi auguro davvero che chi ce l'ha mandata non faccia sul serio, sia forse in un momento, diciamo così, in cui lo capisco, non era pienamente padrone dei suoi nervi. Lo leggo: sono un agente di commercio, e si chiama Leo, c'è anche il cognome, preferisco non farlo. Sono un agente di commercio da oltre 23 anni, praticamente ho sempre lavorato perché sono prossimo ai 42. Ho superato molti problemi economici durante la mia vita, ma questa volta, se al prossimo e primo colloquio con quelli di, c'è scritto dove, non riusciremo io e il mio giovane socio ad avere le agevolazioni economiche richieste come da prevista legge in corso per le nuove società di persone, mio malgrado sarò costretto entro il prossimo mese a vendere i miei organi vitali, perché non ho più alternativa. Mi auguro solo che i proventi ricavati dall'espianto degli organi possano offrire una vita più dignitosa sia alla mia dolce compagna che al mio unico figlio che porta ancora in grembo. Perdonatemi se potete, spero solo che chi promuove delle attività dedicate al bene di questo paese, al bene di questa economia annientata, si passi una volta e per tutte una mano sulla propria coscienza. Leo, io ti dico solo che io ti ho risposto, non ho visto tue risposte, ti prego solo, se mi stai ascoltando, di non, e te lo dico per la quarta volta, non procedere a cose se non a scrivere nei momenti di follia. Abbiamo fatto per questo l'indirizzo disperatimai@radio24.it, però per favore, Leo, non fare cose di questo genere. La tua è, diciamo, la lettera più esplicita che abbiamo ricevuto. Ce ne sono parecchie altre alle quali rispondiamo in privato, perché non vogliamo neanche dare l'idea di cavalcare il fenomeno di questa cosa che si è rotta psicologicamente nel paese, perché aveva sempre evitato, perché era una soglia che teneva, quella psicologica di evitare troppi suicidi patenti ogni giorno per ragioni economiche. Questa soglia si è rotta perché si è rotto qualcosa all'interno della tenuta dell'economia del nostro paese. Leo, non farlo. Io ti riscriverò e lo dico a tutti coloro che ci hanno mandato lettere di questo tipo: non facciamo fesserie. Un modo ci deve essere, e le vostre lettere le leggiamo per questo. Allora, torniamo da Giuseppe De Stefano. Giuseppe, voi costruite scuole e opere pubbliche in comuni e regioni, che Sardegna, Campania, ma riguarda sempre un maggior numero, grazie anche a questo patto di stabilità che ci siamo dati interno, che non sono in grado di pagare. Le posso fare un'altra domanda a Giuseppe De Stefano? Visto che chi lavora con la pubblica amministrazione, oltre ai ritardi dei pagamenti e ai tempi, alle procedure, alle impugnative del nostro diritto amministrativo, delle conferenze di servizio, deve mettere in conto anche, magari spesso, visto quello che ci dicono le cronache, che talvolta i politici poi allungano le mani di soppiatto e chiedono pure tangenti. Si può lavorare in una regione come la Campania, la Sardegna, che ha tutte queste difficoltà ambientali, ed è anche per questo che poi fai attività antiusura? Quanti colleghi di imprese, di fronte all'usuraio da una parte, di fronte alla bancaria e dall'altra al politico che chiede le tangenti pur di andare avanti, invece secondo te fanno questo? Ne sono molti. Ce ne stiamo accorgendo negli ultimi tempi, proprio per la questione della crisi, perché se fino ad oggi in qualche modo chi allungava la mano veniva favorito, nel senso gli veniva pagata la tangente e successo presto, qualcuno prima, avendo disponibilità e per lavorare, l'ha fatto. Oggi invece si stanno molto rivolgendo alle associazioni proprio per questo, pure anche un poco per la crisi, perché nonostante il politico o il mafioso di turno sa delle difficoltà, non ha paura, nonostante tutto, la crisi, a dire: guarda, mi tocca questo sull'appalto. Quindi oggi abbiamo imprenditori che si rivolgono alle associazioni, però è solo perché non hanno la possibilità di pagare. Io mi auguro, Giuseppe, che la tua denuncia, che ha dato parole concrete alle condizioni delle imprese che si vedono portate più vicine a punti critici, per critici, dallo Stato che pretende di farci la morale, sia un altro pezzo della nostra riflessione, e ti ringrazio per la testimonianza che ci hai voluto dare. Abbiamo con noi collegati adesso altro pezzo, terza testimonianza di oggi, la testimonianza di coloro che in concreto invece nella vita associativa delle imprese organizzano sul territorio, ed è un numero sempre crescente di esperienze che sono nate in queste settimane, delle reti di ascolto, qualche cosa di concreto per mettersi a disposizione dei tanti come Leo che prima ci hanno letto quella lettera, vi ho letto quella lettera che mi ha molto preoccupato. E qui siamo a un'iniziativa messa in piedi dalla CNA di Pisa, e abbiamo con noi la dottoressa Alice Salvetti, che è una psicologa del lavoro, è una mediatrice familiare e che rappresenta quindi della rete di ascolto messa in atto dalla CNA di Pisa, che si chiama SOS Imprenditori, un riferimento per le aziende in crisi. Do anche il numero verde per pisani che dovessero ritenere di rivolgersi a questa rete messa in piedi dalla CNA. Il numero è 050 806 8012. Ecco, la dottoressa Alice Salvetti, psicologa del lavoro, è con noi proprio per farci capire in che cosa può consistere la particolarità dell'apertura di uno sportello di sostegno psicologico, che tenta di essere operativo e tenta di dare degli strumenti, alla luce di come può farlo una psicologa del lavoro, ma degli strumenti particolari di fronte a chi si sente disperato e sente che gli si sta spezzando qualcosa nell'onore che lo ha fatto scommettere sulla vita dell'autoimprenditorialità. Ecco, dottoressa, grazie di essere con noi per qualche minuto. Ci spiega un pochino in che cosa può consistere il rapporto che si può tentare di mettere in piedi tecnicamente con un imprenditore così disperato? Certo, innanzitutto dobbiamo cercare di contenere il disagio psicologico che comunque ogni imprenditore in questo momento particolarmente delicato e direi anche drammatico sta passando, sia l'imprenditore che la famiglia dell'imprenditore, attraverso un servizio di sostegno psicologico atto sia a contenere il disagio sia a riattivare le risorse interne dell'imprenditore, perché ne va di meno l'autostima, il senso di autoefficacia e di efficienza personale, non solo professionale. E posso chiederle una cosa, nella sua esperienza, poiché, come è comprensibile, per tante ragioni, per il condizionamento culturale, noi tendiamo a immaginare la psicologia del lavoro concentrata soprattutto innanzitutto sul disagio di chi perde il lavoro dipendente e magari o chi fatica, nelle ultime generazioni fatica a entrare nel mondo del lavoro, i giovani, dall'altra gli over cinquantenni che si sentono esclusi e non hanno un sistema di matching tra domanda e offerta che di faccia rientrare nel mondo del lavoro se perdono il posto, e oggi magari sono pure esodati che hanno 6 anni da aspettare prima della pensione. Noi siamo abituati a pensare alla psicologia del lavoro, cioè il mestiere che fa lei, come qualcosa soprattutto che si è specializzato per le conseguenze negative di un mondo fordista del lavoro in cui il lavoro poi non ce n'è neanche più abbastanza per tutti, ma insomma a favore del lavoro dipendente, i cui diritti erano compressi, i cui i termini di conciliazione tra vita e lavoro erano messi in discussione da un welfare che non funziona ed è il più ostile alle famiglie come quello del nostro paese. E immaginare di trasporre tutto questo, una psicologia del lavoro a favore del lavoro dipendente, volgerla invece a favore dell'autoimprenditorialità, è un errore che io la veda così e che mi sia soprattutto, abbia soprattutto visto la psicologia del lavoro per i dipendenti, e non voglio mettere gli uni contro gli altri, secondo me bisogna appunto avere un approccio che è un approccio simile, per così dire, ma sbaglio in questa mia lettura, è un po' superficiale quello che sto dicendo secondo lei? Ma magari finora è stato così, però con i tempi che corrono è indispensabile seguire anche l'imprenditore, perché finora l'imprenditore è stato visto come una persona forte, una persona piena di autostima, ambiziosa, invece è una persona, è un essere umano con i suoi dubbi, con le sue perplessità, e è una persona che ha bisogno di aiuto. E in questo momento si vede chiudere tante porte, si vede dire tanti no, sia dalle, come abbiamo detto, dalle pubbliche amministrazioni, dalle banche, dallo Stato in sé per sé che continua comunque a tassarle e quindi non facilita comunque la vita aziendale. E quindi c'è bisogno, sì, di contestualizzare anche la psicologia del lavoro e quindi di rivolgerla anche a coloro che finora erano stati considerati comunque i più forti, e quindi quelli che erano... non erano ancora stati toccati dalla crisi economica. Io ringrazio la dottoressa Alice Salvetti, e il nostro stimolo è a tutte le diverse parti del mondo associazionistico di impresa. Oltre alle consulenze di servizio, bisogna dare ai propri iscritti tradizionalmente, cioè la consulenza amministrativa, quella tributaria, quella per il credito, quella per mettere insieme le reti d'impresa, quella per le facilitazioni di fronte ai bandi della ricerca, dell'innovazione tecnologica pubblica, eccetera eccetera. Anche questo tipo di servizio di prima, anzi di ultima istanza, deve essere una frontiera associativa. C'è un ritardo del sistema, c'è un ritardo anche del nostro editore, io sono esplicito in questo, siccome sono esterno rispetto agli altri, sono pro tempore a Radio 24, non so quanto resto, se resto, perché non so che senso abbia che io resti qua così, ma io sono convinto che per esempio anche il sistema Confindustria da questo punto di vista dovrebbe, potrebbe fare di più insieme al sistema bancario e al sistema assicurativo. Devono essere i privati, l'orgoglio di rappresentare l'impresa deve essere capace di produrre reazioni dal basso sul territorio, attraverso le proprie articolazioni territoriali e di associazione, di categoria orizzontale e verticale. Lo sta facendo il mondo Rete Impresa Italia più che gli altri, perché è ovvio, perché sono i piccoli imprenditori, sono gli artigiani, sono i commercianti purtroppo a stare peggio di tutti, però ci sono anche piccolissimi e piccoli iscritti a Confindustria in queste condizioni, ce ne sono a migliaia, c'è il popolo delle partite IVA e degli italiani che dobbiamo invece indurre a continuare a scommettere sull'autoimprenditorialità. È sbagliato credere un mondo del lavoro in cui tutti diventano lavoratori dipendenti, come volevano dirvi con questa stupida riforma del lavoro, sbagliata nei suoi presupposti culturali, mi dispiace, la Forello può dire quello che vuole, è sbagliata, e i suoi 3 giovani ricercatori che gliel'hanno scritta con questo giro di vita in entrata, dicendo che contratto unico come unico modello è una maniera dirigistica di chi non ha la minima idea di che cos'è la realtà complessa di un sistema di imprese come quello italiano. Sto dando come al solito giudizi da saputello che pretende di insegnare tutto. No, Io pretendo però che questo punto di vista, il mio, abbia la possibilità di parlare finché sono qua pro tempore, e anche compreso il diritto di dire che Confindustria secondo me non sta brillando da questo punto di vista. Certo, noi facciamo parte del sistema e quindi come sistema ci siamo presi la croce sulle nostre spalle per darvi voce. Grazie dottoressa Alice Salvetti. Ora abbiamo, in ritardo, colpevole come sempre io, solo il minuto sull'informazione stradale. E mentre tornano i Doors, oggi era San Fedele, e allora buon fedele a chi è confalonieri e a chi invece non si confà come me. Buon San Fedele a tutti. Cominciamo con qualche telefonata rapidissima di vostre testimonianze e impressioni dalle lettere, dalle testimonianze che avete sentito oggi. Innanzitutto Maria Giovanna da Milano, prego Maria Giovanna. Buongiorno, io sono un segretario comunale di un comune del milanese e ho chiamato perché volevo rappresentare la difficoltà per gli enti locali di piccole e medie dimensioni, anche enti locali virtuosi, di pagare le imprese che hanno lavorato per noi per rispettare il patto di stabilità. Il comune di Settimo è un comune che ha un avanzo di amministrazione di 1.700.000 euro e non può pagare le imprese che hanno lavorato. Eh sì. Perché il patto ce lo impedisce. Ne abbiamo parlato mille volte, gli amministratori e naturalmente gli amministratori politici, ma come i vertici della PA, i segretari generali dei comuni che hanno speso meglio, sono stati più virtuosi, non possono riallocare questi avanzi di cassa, li devono tenere fermi. I politici su questo si sono fatti dettare dai tecnici della Ragioneria Generale dello Stato, destra, sinistra e tecnici, il fatto che non si può. Invece bisogna sostituire i signori ragionieri generali. Anche questa è una roba che suscita molte ire quando la dico così, ma siccome la ragione per cui questo patto funziona così male e punisce i virtuosi è questa, e ne sono certo perché l'ho toccato con mano, la mia opinione è che Giannino Ministro farebbe in questa maniera. Dopodiché si batterebbe in Europa perché il criterio, ma vi assicuro che in Europa froga un piffero a nessuno di come funziona in questa maniera il patto di stabilità interno. Sono tutte frottole di signori burocrati dall'interno che preferiscono che la cassa rimanga nel recinto pubblico. Tutto qua. Grazie Maria Giovanna. Filippo da Milano, prego Filippo. Sì, buongiorno dottor Giannino. Volevo soltanto dire che da piccolo imprenditore ce l'ho messa tutta per tirare avanti. Oggi pomeriggio vado a portare i libri per chiudere l'azienda con di attività, e dopo averla portata con i miei 40 anni di attività, visto che l'azienda è stata fatta da mio padre, in giro per il mondo, oggi vado a chiudere. Nel 2007 avevo 12 persone, 12 famiglie, guidavo da mangiare. E mio figlio per esempio ha dovuto lasciare l'Italia perché, malgrado le lodi, malgrado i master, malgrado tutto, ha dovuto andarsi in America a trovare un posto di lavoro a più di 600 euro al mese offerto qui in Italia. Filippo, in che cosa, in che settore eravate? E produciamo macchine utensili. Vendavamo nella zona del Golfo Persico, nell'America Latina, in tutta Europa. Siamo arrivati alla fine. Ho creduto in quello che ho fatto, ho messo dentro quello che dovevo mettere dentro da buon imprenditore, perché ho creduto nella mia attività, e sono arrivato oggi che mi sono fatto fuori il lavoro di una vita e l'azienda e gli operai e tutto. Filippo, io ti do un abbraccio a nome di noi tutti, io mi auguro che riprendiate a fare impresa altrove, perché l'amaro è che gli imprenditori italiani non possono che fare così, in molti casi quando possono farlo, ed è giusto che lo facciano, questo è il problema, lo dico con la morte nel cuore, con le lacrime che mi scendono sotto. Filippo, hai tanti come te che purtroppo oggi, spero non troppi, vanno a chiudere l'azienda, un abbraccio e l'augurio di un paese migliore che vi sappia accogliere e dare regole diverse. Per Mario da Palermo e Giulio dalla provincia di Pavia, appuntamento a domani, chiamate domani se potete o il 26, perché tanto domani facciamo una puntata su una liberazione a modo nostro di chi è il tiranno di cui ci dobbiamo liberare domani, lo ricorderemo, ma noi continueremo in questi giorni sempre, anche magari se abbiamo un ospite a 10 minuti o un quarto d'ora, il 26 avremo Giampaolo Pansa, ma continueremo con le lettere, le testimonianze, e quindi Mario e Giulio chiamatene prossimi giorni. Grazie, a domani. 9 in punto, la versione di Oscar.